Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Come si entra nella leggenda? Si può entrare in tanti modi e noi oggi raccontiamo la storia di una donna che nella leggenda è entrata correndo molto veloce. Una delle donne più veloci del mondo, un'atleta straordinaria la cui specialità erano i 400 e soprattutto gli 800 metri piani. Ha conquistato medaglie olimpiche ai campionati del mondo, ha vinto una grande battaglia con se stessa, con la sua grande determinazione. La protagonista di oggi è Ana Fidelia Quiró, la corridora cubana, l'atleta preferita del leader Máximo Fidel Castro, di cui porta anche il nome Fidelia, una donna talmente veloce che si è guadagnata il titolo di Tormenta del Caribe. Quando piombava sul traguardo battendo tutte, aveva la forza di un ciclone, sembrava la rivoluzione cubana in pista, sembrava il simbolo stesso della libertà. Una storia, quella di Ana Fidelia, che non è stata tutta rose e fiori, è passata anche attraverso un inferno di fiamme, nel vero senso della parola. Il suo colpo d'ala è un colpo d'ala veramente grandioso. Il fattore psicologico in pista è fondamentale, altrettanto importante della forma fisica e dell'allenamento. L'ho provato tante volte in gara. La determinazione ti dà una specie di potenza extra che ti permette di fare una grande prova. Ana Fidelia ricorda ancora la determinazione che metteva in ogni sua gara, anche oggi che è una donna di 52 anni, ancora alta, muscolosa, tonica, che ha compiuto le sue straordinarie imprese negli anni 80 e 90, ha raggiunto le massime vette dello sport mondiale. A distanza di 20 anni è ancora una star nel suo paese, non può uscire per strada senza che qualcuno la fermi per chiederle un autografo. E tutto questo perché la sua storia non è solo una vicenda di sport, è molto di più. Lei incarna il simbolo della perseveranza, del coraggio estremo che non si fa sopraffare dagli eventi tragici. Vediamo di conoscere meglio questa donna straordinaria. Nasce a Palma Soriano, vicino a Santiago di Cuba, il 23 marzo del 63, in una famiglia di operai. Scopre la corsa per strada, giocando assieme ai bambini, però lei non è come tutti gli altri, perché corre come il vento, nessuno la batte. A 12 anni si iscrive alla EIDE, che è una famosa scuola sportiva cubana, perché a Cuba si fa molto sport e gli insegnanti capiscono subito che hanno a che fare con un fenomeno. A 14 anni la mandano a La Habana, dove entra a far parte della squadra nazionale di atletica e dove conseguirà il diploma in educazione fisica. Però lei non si ritiene un'atleta molto precoce. Fino all'83 ero una delle tante ragazzine dotate di un certo talento, brava ma non una vera promessa. Poi arrivò l'oro a La Habana. Detta così sembra semplice. Nell'83 lei ha 20 anni e stupisce tutti perché vince nei 400 metri piani ai giochi centroamericani di atletica. Inizia a fare parlare di sé anche oltre i confini di Cuba. Nell'85 alle Universiadi a Kobe in Giappone la sua fama decolla definitivamente. Guadagna l'argento nei 400, il bronzo negli 800. Si dimostra una potenza, una grandissima determinazione. Ana Fidelia diventa una delle atlete più conosciute di Cuba e la sua vita si svolge tutta all'interno del mondo dello sport, anche perché nell'82 sposa il campione iridato di lotta libera Raúl Cascaré e quindi l'intera esistenza della famiglia è votata allo sport, che a Cuba è considerato una bandiera da sventolare per un regime, diciamo, io lo chiamo di dittatura paternalistica, però insomma è una nazione totalmente tagliata fuori dal contesto, insomma sapete le sanzioni e tutto il resto. Fidel Castro naturalmente è molto attento allo sport, è molto presente. Così la Corridora, come la chiamano i suoi conterranei, nell'87 ha già vinto 39 gare consecutive nei 400 e negli 800 metri piani. È un record che difficilmente verrà battuto. Lei è una stella del firmamento sportivo cubano. I giornali dicono che ha vinto talmente tante medaglie d'oro che se va avanti così dovrà traslocare in una casa più grande. Purtroppo nelle Olimpiadi dell'88 di Seul si verifica uno dei tanti boicottaggi di quei decenni. I paesi, diciamo, del blocco comunista, in solidarietà con la Corea del Nord, non va a Seul e Cuba si associa, e così Ana Fidelia perde un'occasione preziosa, come racconterà lei stessa in un'intervista anni dopo. Dell'anno 1987. Nel 1987 avevo raggiunto quota 39 medaglie d'oro sia nei 400 che negli 800 metri. Ero imbattibile. Per me fu molto dura come atleta, perché uno si prepara con tanto anticipo per partecipare alle Olimpiadi, ma per solidarietà noi non andammo. La delegazione cubana non partecipò, ma molti dei nostri atleti avrebbero potuto essere campioni dei giochi. Quell'anno era sicuramente il mio anno olimpico, sia nei 400 che negli 800. Tanto in 400 come in 800. Ma nonostante l'occasione olimpica perduta, Ana Fidelia diventa famosa non solo in patria. I suoi successi sono straordinari, insomma arrivano i riconoscimenti. Nell'89 la Federazione Internazionale di Atletica la elegge miglior atleta dell'anno. Insomma, la tormenta del Caribe diventa la tormenta mondiale. Ana Fidelia Quiro, la Corridora de Cuba, che ha Fidel Castro tra i suoi fan più agguerriti, e l'atleta pluridecorata con le ali ai piedi, quella che nessuno riesce a battere, raggiunge nell'89 uno dei punti massimi della sua carriera. Stabilisce il record nord-centroamericano e caraibico degli 800 metri piani con il tempo di 1 minuto 54 secondi 44 centesimi. Siamo a Barcellona, 9 settembre del 1989. Ana Fidelia Quirós, che sta in cammino di pulverizzare il record della Coppa del Mondo. Fidelia Quirós in seconda posizione. Sigrun Bodar già pasada la primera posición, la cubana, que va a ganar con un gran registro. Atención a la marca, hay que ver con qué facilidad se va alejando. 1:54.44, sensacional registro. Qué formidable carrera Ana Fidelia Quirós, que acaba de conseguir la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos. Avete sentito, il commentatore dice che Ana Fidelia ottiene il terzo miglior tempo del mondo. Nell'89 ci sono due atlete, una russa che si chiama Olizarenko e la cecoslovacca Kratokvilova, che avevano un tempo inferiore di qualche centesimo. Però il fatto più incredibile è che questo terzetto verrà superato negli anni solo dalla keniota Pamela Yelimo ai giochi olimpici di Pechino nel 2008. Se teniamo conto dei miglioramenti di tecniche, di materiali, per esempio delle scarpe, insomma, possiamo renderci conto di quale grande risultato fosse quello della straordinaria atleta cubana di cui stiamo parlando. E arriviamo al 1991, un anno molto importante per lei. Ai giochi panamericani a La Habana ottiene l'oro sia nei 400 che negli 800 metri piani. È un successo annunciato. Lei non ha voluto rinunciare a partecipare a questa manifestazione del suo paese, anche se pochi giorni dopo c'erano i mondiali a Tokyo. Insomma, praticamente c'era da andare a correre a Cuba e poi volare a Tokyo. È molto difficile. Ascoltate cosa racconta Ana Fidelia. Io credo che lo che mi matò a me in Tokyo fu il cambio orario, Julita. Io credo che quello che mi uccise a Tokyo fu il cambio di orario, perché appena finiti i giochi panamericani, partii subito e c'erano 13 ore di differenza. In più mi toccò di gareggiare proprio il primo giorno. Mentre facevo gli esercizi di riscaldamento e di stretching, dormivo, letteralmente dormivo. E sono certa che fu per quello che la gara è andata come è andata. L'orario mi aveva creato molti problemi. Io credo che eso mi affettò molto. Eh sì, tenete conto che oggi gli atleti, quando devono fare cambi di fuso orario, arrivano 20 giorni prima per abituarsi. Qui stiamo parlando dei mondiali, stiamo parlando di avere la possibilità di allenarsi secondo i propri ritmi biologici. Insomma, Ana Fidelia fa una follia. Ascoltiamo comunque come va la gara. Una final cerradissima, appassionante, va a ganare la sovietica con 1:57.50. Lilia Rutinova, campeona del mundo. Segunda posición, medalla de plata para Ana Fidelia Quiroz. Insomma, si fa per dire soltanto seconda medaglia d'argento. È vero che lei è abituata a vincere sempre, ma in quella condizione altri non sarebbero neanche riusciti a partire. E poi tra lei e la vincitrice, che è la russa Lilia Nurudinova, ci sono solo 5 centesimi di distacco, quindi ha perso in volata. A casa sua a Cuba non interessa a nessuno il colore della medaglia, perché lei è una star, riesce finalmente a conoscere personalmente il suo mito. Insomma, ognuno dei due conosce il mito dell'altro, l'incontro tra Fidel Castro e Ana Fidelia Quiroz, e il leader Máximo si complimenta con lei per i suoi straordinari risultati. Siamo al 92, l'anno dei Giochi Olimpici di Barcellona. Ana Fidelia sta vivendo un momento molto particolare della sua vita privata, perché ha lasciato il marito e si è innamorata di Javier Sotomayor, grande saltatore in alto, pluricampione olimpico, una leggenda vivente. Io l'ho conosciuto recentemente, è un uomo ancora massiccio, ci ho giocato a pallone. Comunque, Sotomayor è tuttora detentore del primato di salto in alto che ha ottenuto nel 1993. La passione tra i due è intensa, però infelice, perché Sotomayor è sposato, i due sono insieme a Barcellona e gli atleti cubani hanno la possibilità finalmente di gareggiare, quindi di primeggiare ai Giochi Olimpici. Infatti Sotomayor trionfa nel salto in alto e lei, che è la sua prima Olimpiade, purtroppo non è al meglio della forma perché si è infortunata. A un mese dei Juegos Olímpicos fallece Blas. A un mese dai Giochi Olimpici ebbi una lesione all'adduttore che non mi permise di puntare sulla mia caratteristica più forte, che è la velocità. Io ho sempre spinto moltissimo negli ultimi 100 metri, mi tenevo tutta la potenza per il finale e quella lesione non mi permise di allenarmi a sufficienza nei giorni prima dei Giochi Olimpici. Non mi permettió llegar con por lo menos con 10 competencias de preparación. Bene, pensate che a un'Olimpiade dove corrono i migliori del mondo, una signorina con una lesione all'adduttore arriva al terzo posto. No hay cambios de momento, Nurudinova la primera, Muto la segunda, Quiroz tercera, la holandesa Zalla cuarta. Torna a Cuba, dove a attenderla ci sono i soliti festeggiamenti per l'ennesima medaglia portata a casa, ma c'è anche un destino terribile, difficile, e con una prova che è la più dolorosa di tutta la sua vita, e tra poco parliamo proprio di questo. Stiamo raccontando la vita e le imprese di una delle più grandi leggende della storia dell'atletica leggera, una campionessa considerata ancora oggi una delle donne più veloci di tutti i tempi, la cubana Ana Fidelia Quiroz, specialista nei 400 e negli 800 metri piani, soprannominata la tempesta del Caribe per la forza e l'impegno che metteva nelle sue gare. Con risultati eccezionali ha potuto riempire casa di medaglie, un palmarès incredibile. La sua grande vita però ha dovuto confrontarsi con le difficoltà e soprattutto con qualcosa di straordinariamente terribile che le è capitato. Siamo arrivati al 1993, lei è un mito a Cuba. La conoscono tutti, è medaglia d'argento ai mondiali di Tokyo, di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona, ricevuta da Fidel Castro, però è anche un personaggio al centro di un chiacchierato gossip, perché ha una relazione con un'altra leggenda vivente dello sport cubano, Javier Sotomayor, il campione di salto in alto. Sotomayor però è sposato e quindi c'è molto rumore attorno a questa coppia. Lei il marito l'ha lasciato, era Raul Cascaré, un campione di lotta libera, e Sotomayor invece non vuole abbandonare la famiglia, e in più lei scopre di essere incinta, quindi i momenti sono difficili. Lei probabilmente si sente amareggiata perché lei ha lasciato il marito e l'altro non ha lasciato la moglie, insomma la gravidanza se la sta vivendo tutta da sola. Arriviamo a quel tremendo giorno, il 22 gennaio del 93, è un momento terribile, lei incinta al settimo mese, è consapevole di portare in grembo una bambina che ha deciso di chiamare Javiana come il padre. sta pensando probabilmente a quello che l'aspetta, perché sarà una madre single, una madre chiacchierata, e insomma da questo momento si parte con le ipotesi. Agli atti ufficiali verrà messa questa ipotesi, cioè che lei sta preparando la cena, mette del cherosene in un fornello che credeva spento ma che non lo era, e quindi lei si trova abbracciata dall'inferno. Io nel 93 passé per un momento muy duro. Nel 93 ho passato un momento molto duro, stavo perdendo la vita. Avevo il 38% del corpo con ustioni del secondo e terzo grado. Devo la mia vita prima di tutto alle capacità dei medici, ma anche al mio grande desiderio di vivere e mostrare a tutto il mondo che avrei potuto ricominciare a competere ad alto livello. I dottori dell'ospedale della Havana hanno fatto di tutto per salvarmi e per aiutarmi a recuperare. Soprattutto il recupero a livello psichico, per me, era vitale. Psichicamente, per me, questo era algo vitale. Anna Fidelia, di fronte alla sua cucina cherosene, si trasforma in una torcia umana. 38% del corpo con ustioni del secondo e del terzo grado. Incidente spaventoso, lei si ritrova tra la vita e la morte. Partorisce forzatamente, la bambina sopravvive solo 10 giorni. Ricoverata nel reparto grandi ustionati a La Habana, lei è subito oggetto di un vero e proprio pellegrinaggio di fan, amanti dello sport, persone colpite dalla gravità delle sue condizioni. A questo punto partono le altre ipotesi, quella che a Cuba si chiama Radio Bemba, cioè la voce popolare, come noi diremmo, non so, Radio Serva. Elabora altre teorie, per esempio si parla di un tentativo di suicidio a causa dell'infelice relazione con Sotomayor, ma c'è un'ipotesi ancora più inquietante, che è quella che diciamo la moglie di Sotomayor abbia avuto un ruolo fondamentale in questo incidente. Ovviamente nulla di dimostrato, però sono tre ipotesi ugualmente credibili, e le ultime due, ahimè, piuttosto suggestive. E di certo Anna Fidelia non reagisce come una che voleva togliersi la vita. Al pueblo de Cuba que desde la sora. Il popolo di Cuba, fin dalla prima sera, si è riunito fuori dall'ospedale per conoscere il mio stato di salute, ed è stata una cosa che mi ha colpita tantissimo. Ma soprattutto quello che fece la differenza nella mia volontà di recuperare fu la visita del nostro carissimo comandante Fidel Castro, che quella stessa sera è venuto nella mia camera ad incitarmi a lottare per la vita. È valsa la pena, tutto il sacrificio, tutta la sofferenza che ho patito. Ma la vita di uno sportivo è disciplina, perseveranza, tenacia e superamento degli ostacoli. Però alla fine, se tu credi con forza in te stessa e nella tua capacità di raggiungere un obiettivo, ce la puoi fare. Se può e se logran los objetivos, las metas y las tareas que uno se trace. Insomma, non sembrano proprio le parole di una persona che ha appena tentato il suicidio. Certo, il popolo vede nell'incidente quella pratica usata dalle donne cubane di uccidersi per amore, dandosi candela, dandosi fuoco. Di certo, insomma, è una pagina sulla quale non verrà mai fatta chiarezza. Solo lei probabilmente conosce la verità, a meno che non ci sia stato qualcuno che le ha bruciato la casa. In quel caso sono in due a saperla. Anna Fidelia comunque dice: i fatti sono quello che contano, e quindi inizia un percorso molto duro, un percorso di riabilitazione, di allenamenti costanti, perché lei vuole ricominciare a correre. 21 operazioni di chirurgia plastica per restituirle, anche se solo in parte, la sua immagine di prima. Anna Fidelia inizia a allenarsi a 5 mesi dall'incidente, un colpo d'ala straordinario, ancora fasciata nelle braccia, nel collo, ha i primi interventi di chirurgia plastica che cominciano a ridarle una parvenza di normalità nel viso. I medici rimangono di stucco, perché all'inizio si dubitava perfino della sua sopravvivenza. E lei si libera dai suoi fantasmi, dal dolore per la perdita della bambina, dalla fine della sua relazione con Sotomayor. Nel novembre del 93, a soli 9 mesi dall'incidente, partecipa ai giochi del Centro America a Caribe di Ponce, a Porto Rico. Ponce 93 fu, tu sai, a solo 9. Ponce 93, a solo 9 mesi dal mio incidente, rappresentava per me essere di nuovo nella competizione di alto livello. Continuavo a ripetermi sempre la stessa frase: voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare. Decir voy a volver, voy a volver. e torna, Anna Fidelia torna compiendo un'impresa eccezionale, tenuto conto che le ustioni la fanno soffrire ancora molto, tenuto conto che continua a subire interventi su interventi. Lei ha una forza straordinaria, il pubblico è con lei e le tributa un'ovazione incredibile prima della gara. La presentación especial de Ana Fidelia Quiroz. El aplauso. De Ana Fidelia no sabemos si va a correr adelante, si va a guardarse, si va a probar su fuerza. Un poco más de 300 metros, Ana Fidelia un paso afuera y me parece que está corriendo muy afuera Ana Fidelia. Está corriendo de más, pasó la Adriel de al frente, Ana Fidelia a poner presión. Pero está evitando que la embote. Sí. La Adriel de al frente, Ana Fidelia afuera. La Adriel entra al frente a los últimos 100 metros. Va a ser de ella la medalla de oro. Ana Fidelia Quiroz en segunda posición. Arriva seconda in quella che forse è la più dura gara della sua intera carriera, la gara del rientro. Ad accoglierla all'aeroporto, come sempre, c'è ormai il suo amico, il suo interlocutore più prezioso, Fidel Castro, e la sua carriera, la carriera di Ana Fidelia, appare decollare nuovamente, quasi che l'incidente le abbia dato una marcia in più, e arrivano dei risultati straordinari. Siamo nel 95, 13 agosto, finale degli 800 metri piani ai mondiali di atletica leggera a Göteborg in Svezia. Ana Fidelia ha uno sprint imbattibile. Hero coming. Holmes leads Rainey, Quiroz challenging, so's Foresti. Can Quiroz do it? I reckon she can. Jarte late, Quiroz taken the lead from Holmes. They said she'd never run again in 1993. She's clear, Quiroz. What a story it is. What a story it is. Che storia è questa? E lei diventa medaglia d'oro un'altra volta, campionessa mondiale. E non avrebbe più potuto correre, lo avete sentito anche dire dal commentatore, e non avrebbe più potuto partecipare a delle gare dopo quello che le è successo. Bene, vince gli 800 metri, batte tutti, non solo le avversarie, ma soprattutto il suo destino, la sua cattiva sorte, e si dimostra più forte di quell'abbraccio di fuoco che aveva cercato di fermare la sua corsa. Per dimostrarle al mondo che... Ci tenevo a ringraziare il mio paese con la medaglia d'oro, dimostrare a tutto il mondo che se si vuole si può ottenere tutto. E poi volevo ringraziare il nostro caro comandante Fidel Castro, che ha sempre avuto fiducia in me e mi ha sempre spronata. Mi ha dato l'appoggio morale per lottare per la mia vita e ritornare alle gare a livello mondiale. Ero contenta, perché quel giorno, il 13 agosto, era il suo compleanno. E quale regalo migliore potevo fargli di una medaglia d'oro? È stato il regalo più bello che potevo fare a lui e al nostro popolo. A nostro querido comandante e a nostro pueblo, Julita. Certo, un rapporto stretto quello tra Ana Fidelia e Fidel Castro, chissà. Comunque, lei ha ancora in serbo molte sorprese per Fidel e per i suoi tifosi. Alle Olimpiadi di Atlanta nel 96 ha una gara straordinaria, perché si deve misurare contro due atlete fortissime, la Masterkova russa, Svetlana Masterkova, e Maria Mutola del Mozambico. Comenzó la carrera. Final de 800 metros plano femenino. Se discuten las medallas de oro, plata y bronce. El máximo título olímpico en Atlanta 96. Ana Fidelia por el carril número 6. Viene la corredora Kelly Holmes de Gran Bretaña. Ana Fidelia, Mutola detrás. Vamos a ver, últimos 80 metros. Aquí viene Masterkova, viene Jake, viene Ana Fidelia. Ana Fidelia, Mutola atacando por fuera. Viene la corredora de Rusia. Viene Rusia para el primer lugar. Ana Fidelia para el segundo. Ana Fidelia para el segundo. Mutola. Tre continenti sul podio, vince la Masterkova, seconda la Quiroz, terza la Mutola. È un risultato grandioso, eppure lei è delusa, come racconterà alcuni anni dopo, intervistata dalla TV cubana. Contenta no. Contenta no, non lo ero, perché ero stata la migliore per 15 anni. Ed era un peccato andarmene senza la medaglia d'oro olimpica che mi ero preparata a vincere per due Olimpiadi. Quella del 92 e questa del 96. Nel 96 feci un errore che commettono spesso gli atleti, un errore tattico che mi costò la medaglia d'oro, perché preparata ero. Poco preparata stava. Beh, però lei chiude in bellezza. L'anno dopo a Atene ci sono i mondiali e lei vince ancora, vince la medaglia d'oro con una gara senza precedenti. Mutola comes past now the 200 meter mark, and at 150 meters Kiro is still challenging. What has Mutola got in the legs? Can she hold off the challenge of Kiro? Kiro has shown superb form coming into the championship. She's not going to do it, I think. Yes, she is. She's starting to pull away from Mutola, and she's pulling away by a yard, two, maybe 3 yards now. Wonderful performance. Wonderful performance fino alla fine della sua carriera. Grandi, grandi gare. E oggi Anna Fidelia Kiro ha 52 anni, è una donna splendida che porta con orgoglio i segni del suo terribile incidente. Si è sposata con un italiano, Riccardo Rolle, ha due bellissimi figli, Carla di 15 anni, Alberto di 14, e si occupa delle relazioni pubbliche della Commissione Nazionale Cubana di Atletica Leggera. È considerata da tutti una icona indiscussa e un simbolo di straordinaria perseveranza. Ci sono storie a volte sconosciute, a volte che crediamo di conoscere o che conosciamo solo in parte. Grandi persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala o tanti colpi d'ala, come Anna Fidelia Kiro, che poi riesce a volare anche al di là delle fiamme e delle difficoltà terribili che ha provato nella vita. Ognuno di noi può cadere, ma può anche volare molto in alto. E se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure sul nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi e a cercarci sui miei e sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.